Ed eccoci in onda, quindi, dalle frequenze degli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Insomma, ci hanno detto, ci hanno suggerito che trasmettere da qualche chilometro di distanza dagli studi della radio può costituire qualche problema dal punto di vista non in particolare della qualità tecnica del segnale sonoro che vi arriva, quanto perché si avverte, si sente, si capisce che siamo in ciabatte. Tutta la ginnastica vecchia con gli sgari, ormai abbrutiti da questi arresti domiciliari che valgono un po' per tutta tutto il suolo, insomma, dello stivalone che si protende dentro il Mediterraneo. Vabbè, ma questa comunque invece la sigla, quella solita, quella da sempre di 25 O'Clock. E va in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, una radio che sta facendo proprio in questi giorni un eccellente lavoro di controinformazione, di denuncia, di mettere insomma il coltello nella piaga in questo momento assurdo che stiamo vivendo. E giustamente dicevamo delirio, perché forse la parola più adatta per descrivere questo strano incubo distopico. Dicevamo radio, la radio invece continua a fare il suo lavoro con gli strumenti che ha e come può, e questo fatto costituisce una cosa molto importante per compagni e compagni, per tutti e tutte, ma questo avviene solo grazie, come dal 1977 a oggi, che ci sta un sacco di gente, di compagni e compagne che sostengono la radio in forma anche economica. E vi ricordiamo che c'è la campagna di sottoscrizione alla radio, il radioabbonamento 30 per 1000, 30 euro per 1000. Fra voi tutte ciò costituisce un ammontare, il calcolo è facile, di 30.000 euro, che significa un anno di ascolto di Radio Onda Rossa, di controinformazione, di denuncia, di cultura. Quindi quindi www.ondarossa.info. Andate sul sito, troverete il banner, cliccateci dentro e donate 30 euro per la radio. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione. 25 o'clock 25 scritta a numero. Per molestare il sottoscritto. E infine 0649 1750. Ma in questo momento noi non vi risponderemo perché trasmettiamo da remoto. Stop! quindi continuando con... Anzi, no, non ve l'avevo detto, ritorniamo un passetto indietro. Eravamo in crisi d'astinenza da Melvins, sapete che noi dobbiamo... assumere una dose settimanale di Melvins, altrimenti andiamo in crisi d'astinenza, ci sentiamo male, insomma, quasi meglio questi arresti domiciliari. E perciò dal loro ahimè lavoro di 2 anni fa, che si chiama Pincus Aborkal Technician, perché festeggia il ritorno di Pincus fra i Melvins. E quindi abbiamo ascoltato la più classica delle tracce prodotte da Melvins, cioè una cover stravolta e manipolata. Avrete riconosciuto comunque I Want to Hold Your Hand, Lennon McCartney, Beatles. Ora invece vi lasciamo per una mezz'oretta, perché appunto questa coatteria, cioè questo essere coatti, invece poi alle persone vivaci non fa che produrre idee e stimoli. Questo non vuol dire che noi siamo vivaci. Però comunque qualche stimolo ce l'ha prodotto ugualmente. E perciò abbiamo interpellato il fantasma, che è rimasto lui sì entusiasta. Della proposta, e per cui ha preparato per noi un mix che si chiama Trip Virus. Dura 32 minuti. Noi ve lo facciamo ascoltare tutto per esteso. E poi magari più tardi, attrezzando e grazie alle strutture tecnologiche potentissime di cui siamo dotati, sempre stando in ciabatte, poi insomma cercheremo di mettersi in contatto col fantasma e faremo 4 chiacchiere con lui anche rispetto a questo esperimento di mix. Quindi mettetevi comodi, non continuate a correre per il corridoio, smettetela di fare esercizi dei bicipiti sugli stipiti delle porte, perché parte questa roba qua. Eccola là! Non lasciatevela scappare! Decapitatela! Sono ancora chiusa a chiave! Ma la regina! Devo uscire fuori! Oh, ma tu sei fuori! Cosa? Guarda tu stessa! Ma quella sono io! Mi sto dormendo! Non lasciatevela scappare! Tagliatele la testa! Alice, svegliati! Mi taglierà la testa! Decapitatela! Alice, Alice, vuoi essere così gentile di stare attenta e di ripetere la lezione? Mm? Oh, il coccodrilletto nel fiume discese e a nuoto sorprese di pesci un gruppetto. Alice, ma cosa vai farneticando? Oh, scusami. Ma vedi, il brucaliffo ha detto... Il brucaliffo? Oh, per amor del cielo. Alice, io... Oh, beh. Andiamo, è l'ora del tè. 1988. L'indice di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il 400%. Quella che un tempo fu la libera città di New York diventa il carcere di massima sicurezza per l'intero paese. Un muro di cinta di 15 metri viene eretto lungo la linea costiera di Jersey, attraverso il fiume Harlem, e giù lungo la linea costiera di Brooklyn. Circonda completamente l'isola di Manhattan. Tutti i ponti e i canali sono minati. La forza di polizia statunitense, come un esercito, è accampata intorno all'isola. Non vi sono guardie dentro il carcere, solo i prigionieri e i mondi che si sono creati. Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più. Una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme, con i lanciafiamme, con i lanciafiamme. Ho qui un documento eccezionale, c'è l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento. Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Lutbach. Rispondi sì. Sta occupando. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil. Ecco, l'avete riconosciuto, è Lutbach. Hai tu il libero arbitrio? Rispondo io sì. È un grande consulente di strategia militare americana, un grandissimo consulente anche di se stesso. Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero, fuori dai mal, fuori ecco, dalle malle che c'è la televisione. L'Italia non deve avere paura. L'Italia non deve avere paura. L'Italia non deve avere paura. I cittadini che in questo momento ci ascoltano, i telespettatori, non devono avere paura, perché c'è un governo nazionale, ci sono governatori territoriali, autorità sanitarie, un sistema della protezione civile efficiente, un sistema sanitario nazionale che è tra i più eccellenti al mondo. Quindi quello che sta succedendo in Italia è il sintomo, è il segno di un sistema efficiente che reagisce a cura la salute dei propri cittadini. Noi stiamo lavorando per voi. Libidine! Doppia libidine! non restare sempre sui colpi. Libidine con gli occhi. Giù nei muri da scegna, tranquilli. Merda. So che le cose vanno di merda con le stronzate della carestia, le tempeste di polvere, siamo a corto di patatine fritte, di salsa ben impolpito. Ma io la soluzione. È quello che hai detto l'ultima volta, ho la soluzione, sei un coglione! Sono ancora lei, da che te dici? Ecco come li voglio! Allora ragazzi, so che siete un po' eccitati tutti quanti qui, lo capisco, ma ascoltatemi. Ho ideato un piano in 3 punti per aggiustare tutto. Puta nostra, coraggio! Numero 1. Abbiamo questo tizio non sicuro. Numero 2. Ha un quoziente intellettivo che è spaventoso. E 3. Darà una bella sistemata. Perché adesso vi do la mia parola di presidente. Sistemeremo il problema dei campi risciacchiti! Lui farà ricrescere le piante! Ma quali campi? Di che tipo sta parlando? Io vi do la mia parola! E sistemerò anche le tempeste di polvere! Io vi do la mia parola! Che lui sistemerà le comuni! Lui è così sveglio che farà tutto questo! In una settimana! Una settimana. Il presidente Comacho si presentò al mondo e promise a tutti che Joe avrebbe risolto i loro problemi. Non solo avrebbe posto fine alle tempeste di polvere e sanato l'economia, ma avrebbe anche curato l'acne e il mal d'auto. E se non l'avesse fatto, il presidente Comacho promise che a calci avrebbe fatto sputare a Joe le sue palle intelligenti dalla sua bocca intelligente e ributtato in prigione di suo culo. L'Italia non deve avere paura. I cittadini che in questo momento ci ascoltano, i telespettatori, non devono avere paura. Perché c'è un governo nazionale, sono governatori territoriali, autorità sanitarie, un sistema della protezione civile efficiente, un sistema sanitario nazionale che è tra i più eccellenti al mondo. I ragazzi ti sanno fare, capo! Sei in una botte di ferro! Una specie di botte. Una specie di botte che galleggia nell'oceano. E intorno a noi ci sono squali e diversi altri. Tutti gli anni in aprile avveniva l'insediamento dei nuovi assunti nei vari quadri della megaditta. Erano il frutto di una spietata selezione a base di raccomandazioni, minacce, ricatti ed eliminazione fisica di potenziali concorrenti. Venivano accolti, iniziati e aizzati dal direttore naturale, Gran Mascalzone, Loop Man, pezzi di merda, dottor Barambani. Ricordate, figlioli, di essere sempre disonesti, di essere sleali con i colleghi. Non praticate amicizie disinteressate, ma usate il ricatto, il leccaculismo e praticate spesso delazione. Solo così potrete assurgere ai più alti livelli aziendali. Se non seguirete queste regole auree, ecco quale sarà il vostro destino. Fai della filosofia, dici queste cose. Guarda che se lo fai per prepararmi ad affrontare il trasporto. Grazie, ma tu vuoi diventare un eroe? Vuoi diventare un campione? Guarda che la gente non vuole campioni. Vuole mangiare cheeseburger, giocare all'otto e guardare la televisione. E come ci sei diventato? Vorrei sapere. Non ci si diventa da un giorno all'altro. Va avanti. Non riesco a continuare a vivere in mezzo a gente che abbraccia e coltiva l'apatia come se questa fosse una virtù. Non sei diverso, non sei migliore. Non credo di essere né meglio né peggio per niente. Anzi, io lo capisco, lo capisco totalmente. L'apatia è una soluzione. Insomma, è più facile stordirsi con qualche droga piuttosto che dover affrontare la vita. È più facile rubare quello che si vuole piuttosto che guadagnarselo. Sì. È più facile picchiare un figlio che educarlo. Diamine, l'amore costa impegno, lavoro. Si parla di gente che è mentalmente disturbata. Si parla di gente che è mentalmente fuori di testa, sì. No, sì, ma... guarda. No, qui, purtroppo si parla della nostra vita quotidiana. Poi tu guarda che non te lo puoi permettere di essere così ingenuo. Ma vaffanculo, dai. Sai, dovresti sentirti quando parli, davvero. Tu dici, il problema principale è che la gente se ne frega. Mm-hmm. E allora io me ne frego della gente. Capisci che non ha senso, lo capisci? Tu non te ne freghi? Giusta domanda, io mai. Allora tu cambierai il mondo. Non scherzare, il punto è che io non credo che tu molli perché sei convinto delle cose che dici. No. Credo che tu te ne voglia convincere perché molli. Tu vuoi che ti dia ragione, vuoi sentirmi dire sì, quanto è vero, qui è tutto un casino, questo è un mondo di merda, dovremmo tutti andare a vivere in una foresta sugli alberi. E invece no. E io questo non te lo dico. Io non ti do ragione. Non sono d'accordo. Neanche volendo. L'Italia non deve avere paura. I cittadini che in questo momento ci ascoltano, i telespettatori, non devono avere paura. Perché c'è un governo nazionale, ci sono governatori territoriali, autorità sanitarie, un sistema della protezione civile efficiente, un sistema sanitario nazionale che è tra i più eccellenti al mondo. Vorrò farti raccontare da Lorella, che sono 40 anni che lavora in questa fabbrica, proprio quello che è il senso di paura quando la mattina si va al lavoro in questa situazione, in questa emergenza sanitaria. Lorella, il problema è questo, è la paura che avete. Infatti ieri sera noi ci aspettavamo che Conte avesse un po' più di riguardo, di tutela nei confronti dei lavoratori che tra l'altro stanno lavorando in fabbriche che non producono generi di prima necessità. E invece per Conte probabilmente il coronavirus si ferma davanti ai cancelli delle fabbriche, perché non è solo la Vitron che vive queste condizioni. Noi abbiamo notizie di tante fabbriche dove non vengono rispettati le sicurezze, non hanno i dispositivi, eccetera, eccetera. Come diceva il mio collega, noi lavoriamo anche fianco a fianco. Allora io dico, non è che i lavoratori con 1200 euro al mese devono sostenere il peso dell'economia di un paese. E devo ricordare alla signora Fornero che ci manderà in pensione a noi operaie a 41 anni, io ho 61 anni, devo lavorarne ancora 3, non ce la facciamo più, siamo rotte, malate, non abbiamo più le braccia, le gambe, siamo stanche. E inoltre dobbiamo subire anche questo, siamo in una situazione di emergenza, sentiamo tutti i giorni, hashtag devo restare a casa, no, hashtag prima il profitto e poi la salute della gente, perché Conte si è piegato al volere di Confindustria, basta, noi dobbiamo pensare alla salute perché a casa abbiamo cardiopatici, abbiamo anziani da accudire, perché non ce li accudisce lo Stato, sono sulle nostre spalle. Perché noi curiamo i nipotini, dobbiamo farci carico di tutto e siamo quelli meno tutelati di tutti quanti, a parte poveratti chi lavora in ospedale. Allora, come si chiama questa signora Loretta? Però così il virus si diffonderà. Eccolo, Kleenex Tissue, così morbido, così resistente, così igienico. Igienico? Sì, Kleenex si usa e si butta via e non si tiene il raffreddore in tasca. Kleenex è così morbido sulla pelle dei bambini. È morbido anche per un naso carino e delicato. Kleenex è così resistente che può servire per un uso come questo. E resistente per un raffreddore come questo. Resistente, morbido, igienico. Oggi Kleenex serve come il fazzoletto ed ha anche altri usi.

colpisce soltanto gli esseri umani. Perlomeno non c'è da temere che si propaghi tra gli animali, cani, gatti, uccelli. Già, è una ben magra consolazione comunque. A meno che non ci siano delle scimmie, perché è l'unica specie che può infettarsi. Se preso allo stadio iniziale, il virus è reversibile. Vede, il guaio è che in 3 anni di esperimenti non siamo riusciti a trovare un antidoto adatto. Tutto negativo. Quante compagnie sono dislocate nella zona? Non lo so, non ce l'hanno ancora comunicato. Ah, dottor Watts, non sono lei. Stato ancora in grado di comunicare col comando. Mi hanno detto che potevo usare la radio dell'aereo, ma non era in contatto con la vostra rete governativa. Sì, lo facciamo per evitare che trapellino notizie. Già, voi pensate soltanto alla vostra preziosa sicurezza, ma in questo caso state commettendo un madornale errore. Potremo rimandarla a Washington non appena avrà effettuato un completo controllo clinico. Allora procediamo. Stiamo aspettando il materiale. E vabbè, ma quando arriverà? Da un momento all'altro. Risposta troppo vaga, colonnello. Basta! E si ricordi che proprio voi avete creato tutto questo casino. Questa sì che è bella. Io sono l'unica speranza che voi avete, caro colonnello. E invece di farmi venire qui ad aspettare il vostro maledetto materiale, avreste potuto lasciarmi al laboratorio per tentare almeno di fare qualcosa. Avete commesso un errore madornale. Proprio lei parla di errori. Secondo i rapporti del vostro gruppo, quel vaccino era da considerarsi inattivo. Ma certamente, sì. Ognuno di noi era convinto che il vaccino fosse innocuo per almeno il 99% dei casi. Del resto la nostra valutazione era condivisa dai vostri esperti, se non è perfettamente inutile fare questa polemica. Allora mi autorizzi a tornare al laboratorio? Non posso farla uscire dalla zona, lei potrebbe essere un portatore del virus, se non lo capisce. Sono almeno 6 giorni che la falda è rimasta inquinata, è chiaro? Una qualsiasi autobotte può aver trasportato l'acqua al di fuori del cordone sanitario, lo capisce o no? Noi siamo partiti dal presupposto di riuscire a contenere l'infezione finché non cessi il suo decorso. Il decorso è in atto. Ma le ho detto che non può essere attivo all'aria. Ma è nell'interno della falda, sottoterra. È ormai penetrato sicuramente nell'organismo umano. E quindi qualsiasi uomo è un portatore potenziale. Ora, anche se il periodo di incubazione può variare da individuo a individuo, una cosa è certa, il virus ha infettato tutta la città. La città è sotto controllo. Oh. Mi stia a sentire, appena all'inizio dei nostri esperimenti, 2 dei tecnici del laboratorio si presero l'infezione da 2 scimmie che facevano da cavia. Uno delirò per 2 giorni, prima di morire. E l'altro poco dopo impazzì. L'effetto del virus porta a una forma di follia omicida incurabile. Come possiamo arginarne gli effetti su una città? Qui non si tratta di un decorso più o meno breve, ma di una pazzia permanente. Immaginate una città piena di dementi e gli effetti che ne possono derivare. Saremmo costretti a procedere alla sua totale distruzione, ma non c'è scampo. Sconvolgente, vero? Se voi volete che dichiarisca meglio il concetto, vi posso aggiungere che non è un'alterazione nevrotica, ma una mutazione encefalitica. E chi ne resta colpito, se non muore, diventa pazzo per sempre. Capito ora? Immaginate una città piena di dementi e gli effetti che ne possono derivare. Immaginate una città piena di dementi e gli effetti che ne possono derivare. Sonny, mi senti? Ah, sei tu. Sì, grazie per essere venuto. Perché ho vissuto anche troppo. No. Vedi cosa ci hanno tolto? Chi gliel'ha permesso? Noi. Lo vedi? Sì. Non era magnifico. È stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Bene signori, vi rendete conto quanto sono stupidi alcuni nostri concittadini e quanto evidentemente c'è bisogno proprio di dire parolacce? Cioè adesso tra un pochetto, siccome una massa di imbecilli continua ad andare in giro pensando che sia una figata andare in giro, che loro sono più furbi di tutti noi che stiamo chiusi, avremo l'esercito per strada che ci impedirà di andare in giro. Cioè saremo limitati totalmente dalla nostra libertà. Questo perché? Perché un buon 30% degli italiani non capisce assolutamente un beato cazzo. Ora io spero per tutti quelli che mi stanno ascoltando che tutti loro rientrino tra quelli che hanno capito come si deve stare al mondo. Anche perché io comincio un po' a rompermi le palle di stare chiuso qua dentro, ingabbiato, per dare sì il servizio che devo dare, ma anche per colpa di quella massa di imbecilli. E se qualcuno mi ascolta, spero di trovarmelo un giorno per strada, che va in giro a fare il coglione. State a casa, signori, a casa. E tutti quelli che pensano come me, ditelo agli amici o a quelli che conosciamo di stare a casa, ok? Che è diventata una cosa molto molto dura. Signora! Scusi signora, da quanto tempo abita qui? Sono 18 anni. Come è venuta in borgata? Dove abitava? A San Lorenzo, sono sinistrata di San Lorenzo. Ah, in seguito ai bombardamenti? Sì, sono stata sinistrata il 19 luglio e sono venuta in borgata. In quanti siete? Come è composta la sua famiglia? Io, mio marito e due maschietti. I bambini vanno a scuola? Sì, vanno a scuola, ma sono ammalati tutti e due. È lontana la scuola? E beh, vanno giù a Maranella. E il suo marito lavora? Beh, veramente lavora, non lavora, perché lavora in proprio. Che speranze ha? Le piacerebbe certamente avere una casa? Altro che, se non mi piacerebbe una casa. Sono 18 anni che sto a dormire due letti in una camera che fa schifo. Ha fatto già delle domande, ha cercato... Ne ho fatte 14 le domande, gli ho portate tutti i certificati dei bambini, ma purtroppo non c'è niente da fare. Ed eccoci quindi tornare in diretta e adesso proveremo un esperimento assolutamente illegale. Pronto? Ci sei? Aspetta, vediamo se riusciamo a far rientrare il segnale. Abbassiamo i livelli della musica. Eccoci qua. Ci sei? Sì, ci sono. Benissimo, ritorna un po' tutto, il fantasma in diretta, quindi autore di questo mix lungo 25 minuti o qualcosa del genere, in cui insomma ha riempito uno di quei pomeriggi vuoti che siamo costretti ad affrontare, almeno chi poi, chi più chi meno, perché poi dipende pure proprio dallo spazio fisico, no? Dove siamo in qualche maniera costretti. Sì, vabbè, poi nel mio caso sono uno di quei fortunati che mandano avanti in questo momento il paese, faccio parte di una delle categorie essenziali, non me ne ero mai accorto, però insomma adesso ho capito che è comunque una missione importante per questo paese e purtroppo sì, dopo queste giornate mi posso rifugiare a casa, ma dovrei andare al lavoro insomma. No, è bellissimo perché io non ho capito assolutamente nulla di quello che hai detto, ho intuito da quello che dicevi, però dicevamo appunto i mezzi tecnici sono quelli che sono e in qualche maniera ce li abbattiamo. Dicevamo illegale perché praticamente la tua voce è attaccata al microfono dal quale poi io trasmetto, non avendo la possibilità di mandare in onda in diretta dalla postazione remotizzata, e quindi siamo a una distanza molto inferiore a quella anche se virtualmente, da quella molto inferiore dettata dalla legge. Sì, vedi, si è trovato un cortocircuito, ma poi non vorrei che con questo gioco di microfoni, telefoni avvicinati, cose a distanza, cioè, sì, rischiare di creare una porta dimensionale in quel luogo. Sì, perché poi non sappiamo in assoluto veramente nulla circa la pericolosità e la contagiosità di questo virus. Pensiamo, proviamo a ipotizzare se invece il virus si, e forse ce n'è già uno di virus in azione già da qualche anno, probabilmente con questa modalità di relazioni umane sarà l'apoteosi e veramente la pandemia. Il virus della relazione che viene fatta attraverso la mediazione della tecnologia. Ecco, ormai stavamo pensando pure prima, no? Questa coatteria, questo fatto di vivere appunto in situazioni così di prigionia, in qualche maniera indotta, autoindotta, accettata, andata giù, non credo che si ritornerà in realtà come prima. L'esperimento è stato fatto, il diaframma è stato rotto, si può fare, quindi si può vivere finalmente, lo diciamo ovviamente in maniera del tutto sarcastica, si può vivere di relazioni virtuali. È possibile che l'umanità possa continuare, a tuo avviso, a vivere tutto sommato a distanza? Ma secondo me è emerso proprio forse il contrario, nel senso che sì, appunto lo schermo si è rotto. Lo schermo è rotto è una citazione, eh? Sì, no, ma mi viene in mente un gruppo di Aosta che parlava proprio di questo. Comunque, sì, appunto, ci rendiamo conto appunto che vivendo questo momento di coatteria, poi le vie di comunicazione molto superficiali, molto poco approfondite, poco intime, non ci soddisfano. Sì. Poi cosa puoi fare quando ti trovi in questa situazione qui? Cominci a riflettere. Per ora ci giochiamo anche un pochino. Ci giochiamo con questo stato così coatto, no? Però, come dici te, poi la solitudine ci aiuta pure anche a pensare, ad approfondire le cose. Sì, appunto, usavi tu la parola giocare, no? E questa è una delle cose che si possono fare in questo momento qui, appunto, cercare di sperimentare, di riflettere insieme, confrontarci, perché poi trovandoci poi in una situazione di isolamento abbiamo proprio la necessità di confrontarci con più persone possibili, appunto per formare il nostro pensiero, visto che ci troviamo in una situazione dove tutti i canali di comunicazione sono tagliati. Ti rimane insomma il radio terrore di Stato sempre presente, che usa sempre le stesse parole, però appunto questo, i canali di informazione che hai nell'arco della tua giornata quando esci fuori, che sia quello che ti dà un'informazione dalla natura alla gente che incontri, i discorsi che fai, l'impossibilità insomma di sostituire in realtà la relazione fisica, in quanto animali ancora ci ribelliamo in qualche maniera nel nostro intimo, e lo fanno tutti e tutte, credo, no? Sì, ma un po' è stato pure il gioco di oggi di fare questo montaggio audio, appunto giocando sulle parole che si sentono, sulla comunicazione sempre pesante, il clima di guerra, il presente distopico. Attraverso insomma delle conoscenze molto da nerd di tutto il cinema distopico, sono andato a prendere tutti i film che parlavano di virus in maniera apocalittica, però dove il virus magari era la pazzia che dilaga, ad esempio, no? Ho cercato di giocare sul virus, diciamo, che è più famoso del momento, e tanti altri virus che stanno in mezzo a noi. Ascolta, io direi che l'esperimento e gli esperimenti, quello della trasmissione da remoto, quella dei collegamenti, forse andrebbero un po' più sperimentati in maniera migliore. Però è un esperimento assolutamente riuscito, e il livello di comunicazione raggiunto è stato invece importante, proprio perché si basa probabilmente non sulla immedialità dei molti social, per cui uno sta eternamente connesso e gli arrivano un miliardo di messaggi al minuto, ma forse proprio questo recupero della lentezza potrebbe essere la chiave della resistenza. Senz'altro. Anche a livello simbolico, se vogliamo, no? Il momento il momento di stati, in realtà stati non è, perché è una fase costruttiva, è un po' controsenso, no? È quello che possiamo fare, è quello che dobbiamo sperimentare. Poi attraverso diverse forme, io sento pure che stanno nascendo nei quartieri delle radio di cortile, no? Dove si mettono le casse fuori, si fa informazione. Mi riferisco ad esempio a quello che stanno facendo al Laurentino 38. Non smettere adesso di sperimentare, perché è quello che possiamo fare. Insomma. Ho capito. Va bene, allora, se non abbiamo, cioè, anzi, qualcosa da aggiungere ce l'avrei, perché vorrei magari da parte tua che alla maniera di Radio Onda Rossa salutassi chi effettivamente poi in tutta questa questione se la rischia di più da tutti i punti di vista, poi drammatizzazione o meno di questa emergenza, come viene chiamata, virus, no? Insomma, chi vorresti salutare, chi dobbiamo salutare come radio? Saluto tutti quelli che sono all'ascolto, possibilmente, che si trovano privati della libertà personale, un po' come in questi giorni, ma in qualche misura c'è un avvicinamento, no? Noi normalmente facciamo questo saluto, ma oggi lo facciamo così, a ragion veduta. In qualche misura anche noi stiamo sperimentando, per quanto in forma certo non prettamente punitiva individuale, quasi una forma di punizione di massa subiamo, ecco. Sì, certo, è sicuramente più comprensibile in questa situazione immaginare cosa possa provare una persona che si trova reclusa e senza la possibilità di fare tutte le chiamate che vuole, di stare in uno spazio angusto senza poter uscire neanche a buttare l'immondizia quando vuole. Insomma, tutta una serie di cose che attraverso l'informazione della radio è facile ricordare, insomma, tutti i giorni. Un saluto poi a tutti, tutte quelle che hanno perso il lavoro già, se non in questi giorni, già da qualche tempo, e altri che lo perderanno in futuro. Quindi questo. Poi mi ricollego nel saluto anche a una cosa che dicevamo qualche tempo fa rispetto a questa situazione, che si possono fare due cose principalmente, no? O avere gli incubi o avere i sogni. Sì. E quindi cerchiamo di sognare, perché insomma poi sicuramente ci fa meglio, insomma. Va bene. Allora direi un arrivederci. Hai una settimana di tempo stavolta per lavorare il mix. Grande piacere. Dai. Ok, va bene. Allora, dai, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Riproveremo la prossima settimana, senz'altro, se riuscirai, ma sicuramente sarai bravissimo nel farlo. Con il prossimo appuntamento dedicato al mix del Fantasma. Va bene. Un abbraccio a tutta la redazione di Italia Onda Rossa, grandissimo lavoro questi giorni, grandissima vicinanza, e grazie Radio, è una bellezza. Bene, ciao. Ciao. torniamo in onda 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Abbiamo ascoltato quindi il Trip Virus. Edito, confezionato dal Fantasma. E poi Black Mountains, Destroyer, Digest Shadow dal lavoro Our Pathetic Age, un doppio del 1900, del 2019. Ed era una tempesta di fuoco, Firestorm. Poi di seguito anche Sobel Aventine, il lavoro del 2013 da cui abbiamo ascoltato Tocca, per quanto riguarda la musicista danese. Ed ora sotto la vostra voce i Buttress, ultimo lavoro anche questo edito nel 2019, Juice Big Rips, il lavoro For Green Park. Direi che è il caso di mandarlo da capo, non prima di avervi ricordato gli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa e www.ondarossa.info anche per lo streaming e anche per sottoscrivere per la radio. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio da capo. Quindi Battles, For Green Park. We'll be right back. pian pianino. Battles, versione 2019, hanno perso un ulteriore pezzo della formazione. Ormai sono rimasti, diciamo, della formazione originale solo Ian Williams e John Strainer, il cui pedigree comunque musicale rimane, come si dice, di grande rilievo. Ian Williams, una, possiamo dire, infanzia musicale, no, adolescenza musicale nei Don Caballero e le splendide produzioni di quel gruppo che rimane fra le nostri fari di riferimento, e Joe Steiner, che tutti conoscerete come membro degli Helmet. Un lavoro comunque questo del 2019 assolutamente all'altezza, più contaminato questa volta grazie anche qui alla partecipazione di molti artisti che finiscono per rappare e suonare e dentro Battles, fra cui ricordiamo un vecchio dicevamo, un vecchissimo John Anderson, che ricorderete come voce dello storico gruppo band degli anni 70, gli Yes, che comunque ancora si cimenta con i suoi falsetti. Remoto o dalla redazione, cambiamo genere come amiamo fare.

straight. Brush the barnies and the dead in your straight. Subtraction. Brush the barnies and the dead in your straight. Brush the barnies and the dead in your straight. Subtraction. Subtraction. Ivan Marshall, a dire di come la produzione britannica attuale sia assolutamente di primo piano. Like almeno per quanto riguarda le sonorità che piace, di proporre a noi altri dalle parti di 25 o'clock. 25 o'clock versione in ciabatte da Radio Onda Rossa 87.9. Per quanto riguarda le emissioni radiofoniche on air, diversamente www.ondarossa.info per ascoltare, per riascoltare i podcast delle autoproduzioni che la radio va facendo in questo periodo, per ascoltare le dirette in streaming e per sostenere la radio stessa attraverso il radioabbonamento 30 per 1000. Ci trovate tutto www.ondarossa.info. Quindi King Cruel, Stone Again, dal Man Alive del 2020. Ed ora Time for the Cross, ancora King Cruel. Mezzanotte 23 minuti. Thank you. pian piano ci avviciniamo verso il margine ultimo della trasmissione di questa notte. Al solito 25 o'clock vi accompagna fra il mercoledì e il giovedì. When I was a curly headed baby, Daddy sat me down upon his knee. Lo mandiamo da capo, non temete. Stiamo parlando di un lavoro che abbiamo già presentato la scorsa settimana. Billy Bragg and John Henry. Billy Bragg e Joe Henry vanno in giro per le stazioni degli Stati Uniti con la loro chitarra, la loro armonica, la loro scarna amplificazione. Sì. Don't stop here anymore. Andando a ripercorrere la tratta, la traccia e la tratta anche percorsa. Used to think my daddy was a black man. Dalle canzoni, dalle ballate dei poveracci. Now he goes to town. E quindi da capo. Questa tende le LN Don't Stop Any Hair. L'abbiamo detta malissima, anzi non l'abbiamo detta affatto. Seconda traccia, quindi, dal loro lavoro muro, American Ford, The Markham Sound, The LN Don't Stop Here Anymore. Billy Bragg e Joe Henry da capo a 25 o'clock Radio Onda Rossa. When I was a curly headed baby, Daddy sat me down upon his knee. Said, son, you go to school and learn your lessons. Don't become no dusty minor boy like me. Was born and raised in the mouth of the Hazard Hollow. There's a cold car's rolling and a rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garciela, man, don't stop here anymore. To think my daddy was a black man with script enough to buy the company store. Now he goes to town with empty pockets and his face is white as February snow. Was born and raised in the mouth of the Hazard Hollow. Cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garciela, man, don't stop here anymore. Never thought I'd time to hear those tipples roar. But how I wish the grass would turn to money, and those greenbacks fill my pockets up once more. I was born and raised in the mouth of the Hazard Harbor. Gold cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garciel and them don't stop here anymore. Last night I dreamed I went down to the office to get my paycheck like I'd done before. Those kudzu vines were covering up the doorway. There was grease and weeds growing right up through the floor. I was born and raised in the mouth of the Hazard Harbor. Coal cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garciel and them don't stop here anymore. Well, my name, it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all. Damn your eyes. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, and I smashed in his head, and I left him laying dead. Damn his eyes. But a swinging I must go, I must go. A swinging I must go, I must go. A swinging I must go, while you critters down below yell up, Sam, I told you so. Well, damn your eyes. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, and I hollered right out loud, hey there, Molly, ain't you proud? Damn your eyes. Then the sheriff, he came too, he came too. Oh yeah, the sheriff, he came too, he came too. The sheriff, he come to, and he said, Sam, how are you? And I said, well, sheriff, how are you? Damn your eyes. My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, and I'll see you all in hell. And I'll see you all in hell. Damn your eyes. Eccolo! Twenty-five o'clock, onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza. abbiamo concluso con Sam Hall, Johnny Cash, lavoro del 2002, il compianto, il mai troppo poco compianto Johnny Cash. Se l'è fatto è un giretto per le prigioni degli Stati Uniti, oltre che a suonare e voler suonare a San Quintino, tanto così per ribadire il tema della libertà che abbiamo affrontato in qualche maniera in precedenza. Quanto questo, questa parola così evocativa, così piena di significati e anche così abusata per molti versi, debba essere invece compresa con grande profondità, va bene, facciamo un lieve da capo e poi ce ne andiamo. Trentotto minuti dopo la mezzanotte da a capo. Andiamo con Thievery Corporation, Lebonis Blondie. Il nostro appuntamento rimane quello del mercoledì notte dalle 22:30, ma forse un po' più là. Trasmissioni coatte da remoto, non negli studi della radio, ma da altrove. Un ringraziamento al fantasma che stasera ci ha fornito un mix e probabilmente, ma noi toglieremo anche il condizionale dettato dalla probabilità, si ripresenterà lui che può girare la città in tranquillità, tanto è invisibile. Si ripresenterà, dicevamo, mercoledì 21, ci associamo ai suoi saluti, cioè a tutti, tutte quelle che sono costretti e costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, con quanto da incubo possa essere la vita in carcere in questo frangente storico. E praticamente tutti gli altri, perché c'è veramente poca differenza fra chi non è in carcere ma gli arresti degli uffici miliari e gli altri, e non può che aggravare la situazione, perché tra l'altro nessuno ti può aiutare in qualche misura. Anche in queste condizioni altre di limitazione delle libertà. La radio riprenderà dopo la compagna automatica suonata con le programmazioni in diretta domani mattina e tutto il palinsesto del giovedì, più o meno, che cerchiamo di far rimanere sicuro. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, come facciamo da molti anni. Dai, è così, bella a tutti e tutte. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Dai. Yeah. dreams. I'll share our dreams under a communist moon.